C'è chi ha fatto tutto prima, per cui a un certo punto fa pace. Non è che è bello il pensiero, non è bello per nessuno, però fai pace con una certa cosa. Per cui secondo me sarà peggio, non perché lo sto dicendo anche a voi, non perché proprio perché lo penso, non ci farà pace, anzi vampirizzerà. Dall'oblò di questo aereo il mondo sembra ben organizzato, dell'uomo cogli l'operato serio, il tratto netto, duro ed ordinato, reticoli di campi cesellati di cui non percepisci mai l'arsura, e specchi d'acqua poi come diamanti quell'uomo ha regalato alla natura, forse per darle una struttura, per darle una struttura. E strade che si inseguono impossibili, dei popoli raccontano il cammino, aggirano i più straordinari ostacoli, o basta non guardarli da vicino. E noi che siamo in mezzo a queste ali impavide, non siamo niente o siamo tutto. Lasciarci trasportare è stato facile, ma adesso ritornare giù non sembrerebbe giusto. Dovremmo resistere, dovremmo insistere e starcene ancora su, se fosse possibile, toccando le nuvole, o vivere altissimi come due acrobati sospesi. Non guardare giù, non so se c'è la rete, il mondo da quassù sembra lontano, invece un attimo lo sai, a rifinirci dentro, e devo stare attento a non sbagliare col vento, a non sbagliare se vi metto, a non sbagliare a stare sospesi. E c'è una strada sottilissima che non riesco più a vedere, se continui ad aggrapparti rischiamo di cadere oppure fingere un'altra acrobazia. E va in questione di equilibrio, e l'equilibrio è una filosofia. Dovremmo resistere, dovremmo insistere e starcene ancora su, se fosse possibile, toccando le nuvole, vivere altissimi come due acrobati sospesi. Il tempo non passa, rallenta, si ferma, è il vento che conta, che canta. Disobbedire alla gravità, non credo che sia grave, non credo che sia grave. Non puoi chiamarla libertà finché non rischi di cadere, non rischi di cadere. c'è sempre.